piano. Di Enrico Ruggeri. Questa è una di quelle puntate che io ho aspettato per 3 anni. Perché qui si parla veramente delle mie radici, si parla della grande sferzata che io ebbi a 19 anni, sferzata grazie alla quale probabilmente ho fatto il musicista e grazie alla quale in fondo sono qua. Perché oggi si parla di punk, quindi di un fenomeno musicale, sociale, secondo me l'ultimo grande movimento spontaneo, diciamo di base sulla musica, è stata una rivoluzione culturale che ha trasformato l'Inghilterra in qualcosa di completamente diverso, e ognuno aveva un potere con il punk che gli altri tipi di musica non ti davano. E pensate che in Italia quando uscì il punk la sinistra extraparlamentare lo riteneva una musica di destra, questo insomma per dire la lungimiranza di certe aree. E non è possibile parlare di punk ovviamente senza citare loro, i Sex Pistols, e quando si parla di Sex Pistols non si può non citare il cantante del gruppo, l'anima della band in un certo senso, insomma, ma vedremo, perché la storia dei Sex Pistols è molto complessa. È un uomo che ha vissuto una vita difficile, complicata, esageratamente libera, un uomo che non ha mai avuto paura di dire quello che pensava, è un uomo che ha convissuto con tanti problemi, compresa la droga, ma che è riuscito a riconoscere i propri limiti per evitare l'autodistruzione. Ci dobbiamo già domandare come chiamarlo il nostro protagonista. Lui si chiama John Lydon, ma in realtà per tutta la prima parte della storia noi parleremo di Johnny Rotten. Mi chiamo John Lydon e sono nato il 31 gennaio 1956. Ho trascorso la mia infanzia in un tugurio puzzolente in stile vittoriano fino all'età di 11 anni, quando finalmente i miei genitori si sono trasferiti in una casa un po' più decente. Ecco come ho trascorso parte della mia infanzia. Un'infanzia difficile, lui è anche di origini irlandesi, vive questa infanzia fatta di povertà, di case popolari, di topi per strada e magari anche in casa. John Lydon, o come dice lui, John Lydon, si prende la meningite da bambino, rimane in coma per 3 mesi, quando si sveglia ha perso completamente la memoria, non riconosce nessuno, neanche i genitori, la madre deve ricominciare da capo, deve rieducarlo per fargli tornare la memoria. È una cosa terribile non riconoscere i tuoi genitori per molto tempo, e questo ha avuto delle forti ripercussioni su di me e su chi mi stava accanto. John odia la scuola, odia gli insegnanti e odia la maggior parte dei suoi coetanei. È un ragazzino contro. E tutti ascoltano David Bowie, lui ascolta Alice Cooper. Ha i capelli lunghi, l'abbigliamento trasandato, viene espulso dalla scuola cattolica che è obbligato a frequentare. E nel tempo libero si comporta, diciamo, da teppista, in compagnia di un altro ragazzino che come lui si chiama John Simon Ritchie, lo ritroveremo più avanti nella nostra storia, perché lui, questo ragazzino, lo chiama Sid come il suo criceto, insomma stiamo parlando di quello che poi diventerà Sid Vicious e che tornerà protagonista con i Sex Pistols. A 16 anni John con Sid e con i suoi, come dire, compagni di avventura passano il tempo spacciando, occupando case, lui ha i capelli verdi, Sid se li colora di arancione, insomma senza saperlo stanno iniziando a vivere il punk. E intanto negli Stati Uniti ci sono delle band che cominciano a anticipare gli stilemi musicali del punk, principalmente gli Stooges di Iggy Pop e i New York Dolls, perché i New York Dolls facevano già punk anche loro senza saperlo, musica cruda, dura, senza assoli di chitarra, senza virtuosismi. Poi cominciano a farsi strada i Ramones e arriva tutto il movimento culturale di cui abbiamo parlato spesso, con un uomo di cui abbiamo già parlato, Malcolm McLaren, che con Vivienne Westwood apre un negozio a Londra dal nome provocatorio Sex, dove lui vende magliette stracciate e giubbotti con le borchie. E John e anche Sid diventa un frequentatore di quel negozio, che in realtà diventa il punto di ritrovo per questo strano gruppo di giovani nichilisti che vogliono prendere le distanze dalle istituzioni inglesi. McLaren ha uno spirito imprenditoriale, in realtà, molto più che ribelle in maniera astratta. Mette assieme dei ragazzi che secondo lui possono fare la differenza e cerca di creare un gruppo musicale, un gruppo che non abbia paura di esprimere la sua rabbia, il suo odio, il suo disagio. Nasce una cover band, gli Strand. In questa band ci sono Paul Cook, Steve Jones e un bassista che si chiama Glenn Matlock, in pratica i tre Pistols. Manca il cantante. McLaren nota questo ragazzino con i capelli verdi, con una maglietta con la scritta odio i Pink Floyd, con un sorriso terribile, con dei denti grossi, storti e marci. John Lydon, al quale McLaren darà il nome d'arte di Johnny Rotten, che in inglese vuol dire Johnny Marcio, si unirà a questa band. Sono nati ufficialmente i Sex Pistols. Il falco e il gabbiano. Così i Sex Pistols cominciano a provare. Cook alla batteria e Jones alla chitarra, insomma, cominciano a prendere confidenza. Poi c'è il bassista Glenn Matlock, che forse è il più musicale di tutti. E poi c'è lui, Johnny Rotten, che non sa cantare, almeno all'inizio non è assolutamente un cantante, conosce solo i testi delle canzoni di Alice Cooper. Però insomma, cantare è un'altra cosa. I really hadn't sung at all. Avevo poca esperienza di canto. A scuola avevano provato a farmi cantare nel coro, ma per fortuna il prete era morto il giorno dopo. Ne ero sconvolto. Avevo solo 6-7 anni all'epoca. Mi sentivo colpevole e pensavo fosse morto per il mio rifiuto. E così avevo deciso di non cantare più per il resto della mia vita. Ma mi è passata. E il caos che Malcolm McLaren profetizza di voler creare si concretizza nel primo singolo, Anarchy in the UK. Loro raggiungono la 38esima posizione nella classifica, vendono più di 50.000 copie, però intanto la squadra non è assolutamente affiatata, perché c'è un clima molto teso tra i ragazzi della band. Steve Jones e Johnny Rotten non vanno d'accordo, insomma il gruppo rimane unito soprattutto grazie al lavoro sotterraneo che fa Malcolm McLaren, che in realtà sta puntando a fare dei Sex Pistols su una grande macchina da soldi, The Great Rock and Roll Swindle, la grande truffa del rock and roll. Vuole che i Sex Pistols diventino il suo salvadanaio. We really liked the closeness. Sul palco eravamo veramente uniti, ma al di fuori degli spettacoli eravamo come cani e gatti. Riuscivamo a lavorare assieme. Era una piccola ditta turbolente. E qui inizia una ascesa molto strana, molto particolare, vestita anche di leggenda, ma di fatto tanto succede che loro firmano con la EMI, alla quale poi dedicheranno una canzone, e succede che vanno a una trasmissione di una TV inglese, è una trasmissione presentata da Bill Grundy, che è un anchorman vecchio stampo, peraltro un tipo strano, alcolizzato anche lui, che provoca i componenti del gruppo, e loro in diretta lo mandano a quel paese, per dire veramente un eufemismo, dirty fucker lo chiamano. Scoppia uno scandalo, la rete televisiva viene sommersa da telefonate, la EMI, la EMI si spaventa, rinuncia al contratto, paga una penale di liquidazione, 40.000 sterline, e così i Sex Pistols incassano i primi soldi, o meglio li incassa soprattutto McLaren, però diventano un fenomeno musicale e culturale, e tutta l'Inghilterra comincia a parlare di loro bene o male. E nel febbraio 77 intanto Glenn Matlock lascia il gruppo. In realtà Glenn Matlock era il più musicale di tutti, però amava i Beatles e gli altri gliene facevano una colpa di questo amore per i Beatles, e poi era forse il meno punk. I rapporti diventano tesissimi, lui se ne va, e a prendere il posto di Glenn Matlock c'è un bassista che suona molto molto molto peggio di Glenn Matlock, ma ha una perfetta faccia punk, per perfetta per il progetto è il vecchio amico di Johnny Rotten, che adesso si chiama Sid Vicious. Maybe I dragged Sid in there because I needed an ally. Ho trascinato dentro al gruppo Sid perché avevo bisogno di un alleato. Sid aveva voglia di divertirsi, non doveva fare molto, solo unirsi a noi e partecipare. Ma si è fatto travolgere dal suo ruolo. Credeva di interpretare una parte, ma i Sex Pistols non avevano bisogno di recitare. Noi eravamo veri. Il piano di McLaren continua e i Pistols firmano un secondo contratto con la AM Records. Poi si raccontano anche lì delle leggende, si dice che Sid Vicious abbia vomitato sulla scrivania del direttore generale, si parla di segretarie molestate. Escono con un singolo che viene considerato un attacco diretto alla regina Elisabetta, il singolo è God Save the Queen. Insomma, in pieno giubileo, i 25 anni di regno della regina Elisabetta vengono festeggiati con grande sussiego in Inghilterra e i Sex Pistols escono con Dio salvi la regina e poi organizzano un'esibizione su una barca lungo il Tamigi, interrotta dalla polizia, però il brano arriva al numero uno in classifica anche se il titolo non viene mai riportato dai giornali, al suo posto spesso c'è uno spazio vuoto. I just woke up, went down, had a cup of tea and wrote it. Mi sono svegliato, ho bevuto un tè e l'ho scritta. E poi ho pensato, che spasso, speriamo che vada bene. God Save the Queen, in un certo senso, è stata una buffonata. Non si può pensare che fosse una dichiarazione di guerra civile. È una canzone che parla di contraddizioni. Al massimo può far nascere una domanda. Vogliamo o no una famiglia reale? Do we want a royal family, yes or no? E poi c'è il terzo contratto discografico, la Virgin, l'unica casa discografica che accetta di stampare l'album dei Sex Pistols, Nevermind the Bollock, Here's the Sex Pistols. Arriva in vetta alle classifiche inglesi e comincia a funzionare anche negli Stati Uniti, però proprio negli Stati Uniti avverrà la fine dei Sex Pistols, perché nel 78 loro vanno negli Stati Uniti e McLaren li vuole mandare soprattutto nei vecchi posti del sud perché vuol far casino, vuol fare scandalizzare gli americani e il piano funziona in parte. Sid Vicious è schiavo della droga, di quel sentimento di autodistruzione che lo porterà alla morte. Morte e al suo suicidio il 2 febbraio 79 dopo essere stato incriminato per l'omicidio della compagna Nancy Spangen, omicidio che secondo me non ha mai commesso. Tutti gli amanti del punk ricordano la faccia di Johnny Rotten inginocchiato che a San Francisco nell'ultimo concerto guarda con odio il mondo, il pubblico e forse anche il suo futuro e chiude il concerto dicendo: avete mai avuto l'impressione di essere stati imbrogliati? Perché questo era quello che era accaduto. E subito dopo lui abbandona i Sex Pistols e poi Malcolm McLaren insomma organizza un ritorno dei Sex Pistols con come cantante Ronald Biggs, l'autore della rapina al treno Glasgow-Londra, ma nel frattempo Johnny Rotten torna a essere John Lydon e deve costruirsi un futuro. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di John Lydon, che col nome d'arte Johnny Rotten aveva vissuto un periodo di 2-3 anni incredibili, l'epopea del punk e lui cantante dei Sex Pistols, insomma il gruppo simbolo del punk inglese, una vita difficile, vissuta sempre in bilico, una vita nella quale lui si è lasciato travolgere anche dalla sua esuberanza caratteriale e anche dal suo, per esempio, dal suo linguaggio assolutamente improponibile. How can you ban language? Perché censurare il linguaggio? Una parola può essere offensiva? Perché dovrei accettare la vostra interpretazione? Chiedetemi cosa intendo io, non cosa intendete voi. Se non è un mio diritto, allora cosa è mio diritto? È la libertà di espressione, senza la quale saremmo schiavi. È la mia lingua. Andate a farvi fottere. my language, so fuck off. Però Johnny Rotten è anche uno che comincia a leggere qualcosa, comincia a informarsi, è una persona intelligente, sa difendersi con intelligenza. Intanto è stato abbandonato negli Stati Uniti senza soldi, viene aiutato da Richard Branson, il capo della Virgin, che lo riporta a Londra. Johnny Rotten, che ormai torna a chiamarsi John Lydon, e così lo chiameremo da questo momento in avanti, viene diffidato da Malcolm McLaren a usare il cognome Rotten, il cognome di battaglia, ma lui vuole suonare, vuole ritornare a suonare, fonda immediatamente un nuovo gruppo con Keith Levine, che è, diciamo, ha suonato nei primissimi Clash. Il gruppo si chiama Public Image Limited, i PIL, il singolo di debutto si chiama proprio così, Public Image. E la musica dei PIL è una commistione di generi più complessa di quella dei Sex Pistols. C'è il punk, c'è la new wave, ma c'è anche un po' di reggae. Il punk si sta evolvendo in tutto il mondo, i vari Elvis Costello, Joe Jackson, Willie DeVille, i Talking Heads, sia in Inghilterra che in America. Insomma, il punk sta crescendo, è arrivato anche Sting con i Police, no? Il gruppo dei Public Image dura praticamente fino al 1992, poi torneranno nel 2009 per una epica reunion. Il gruppo cambia diversi musicisti, c'è un album in cui arrivano anche Steve Vai e Ricky Sakamoto. Certo che con i Public Image Limited John Lydon ha potuto continuare a esprimersi come artista senza rinnegare il suo passato, ma facendo dei notevoli passi avanti. Nel frattempo John Lydon, che ha sempre avuto una vita sentimentale difficile, è sempre stato uno chiuso, un po' un timido da questo punto di vista, conosce Nora Meyer Forster, che è una ricca ereditiera tedesca che ha 14 anni più di lui. Si innamorano, si sposano, lei è figlia di un editore tedesco, è stata sposata col cantante Frank Forster e ha avuto da lui una figlia che si chiama Ariane. Qualcuno dice che l'abbia sposata per i soldi, ma a me non sembra che John Lydon sia uno particolarmente legato al denaro, anche se ovviamente suona strano che uno degli antesignani del punk abbia deciso di rimanere legato in matrimonio a una sola donna per sempre, perché dopo 40 anni i due sono ancora assieme. Le polemiche mi hanno sempre lasciato indifferente. Immagino che ci sia sempre invidia e amarezza da parte delle persone, ma io so che non ho sposato Nora per i suoi soldi. Mi sono impegnato con lei e, per come la penso io, quando si accetta un impegno bisogna rispettarlo. Sono fortunato. Non ho bisogno di un matrimonio finto come quelli che si fanno a Hollywood. Nora è veramente la signora Rotten. Poi nel 2010 c'è un evento tragico, perché la figlia di Nora, Ariane, muore di cancro e la coppia da allora si occupa dei due figli della ragazza. In pratica John e Nora, che non hanno mai avuto un loro figlio, sono nonni. Ci abbiamo provato, ma lo abbiamo perso. E poi, per le complicazioni, Nora non ha più potuto averne. Per un po' abbiamo pensato all'adozione, ma poi abbiamo dovuto occuparci dei gemelli. E alla fine abbiamo deciso che le cose andavano bene così. Io non sono un insensibile pagliaccio che va in giro ridendo per tutto il tempo. Ho avuto dei problemi, li ho affrontati con un sorriso e ho deciso di non far parte della banda di piagnucoloni che si autocommiserano. Quindi, per favore, ora non mettete in sottofondo un fottuto disco dei Radiohead. Io ho scritto una canzone che si chiama Non è una canzone d'amore, pensando a John Lydon e a questa This is not a love song. E poi John Lydon comincia a dedicarsi anche a una specie, diciamo così, di carriera solista. Incide una canzone Sun che arriva nelle parti alti delle classifiche inglesi e poi diventa un personaggio televisivo, partecipa con grande disappunto dei punk ortodossi alla versione inglese dell'Isola dei Famosi e poi presenta una serie per Discovery Channel, una serie bellissima, se la trovate guardatela, andate in onda, con il nome Insetti da Incubo anche in Italia. Forse a qualcuno della mia generazione, insomma, fa un po' male vedere Johnny Rotten in quei contesti televisivi, però lui può fare tutto, perché il suo modo di essere contro è senza esclusione di colpi. Do I buy country life butter because it's British. Do I buy Country Life because I yearn for the British countryside? E nel 2008 lui fa anche uno spot pubblicitario per il burro Country Life, in cui lui si definisce orgogliosamente British come il burro che pubblicizza. Insomma, i fan, ovviamente, poi adesso che c'è internet, figuratevi, lo accusano di essersi venduto al consumismo, di avere tradito i suoi ideali. Ma non è così, perché lui risponde che lo ha fatto per avere i soldi necessari a far ripartire il progetto musicale dei Public Image Limited. Eh sì, perché i soldi servono a questo, se li sai usare bene, a darti una libertà creativa, e quindi in questo senso sono sacri e ben accetti. E le vendite del burro Country Life, peraltro, sono aumentate dell'85% da quando Johnny Rotten è andato a pubblicizzarlo in televisione. E poi John Lydon, ex Johnny Rotten, viene spesso invitato in trasmissioni e dibattiti ed ha sempre una sua opinione tagliente, trasgressiva, anche quando si parla di argomenti delicati o comunque che lui conosce bene, come per esempio la liberalizzazione della droga. Legalizzazione della droga? Io non capisco perché le droghe dovrebbero essere illegali se ci fosse una corretta informazione di quali sono gli effetti che provocano. È questo il punto focale del problema. Tu puoi ucciderti mangiando due cucchiai di sale da tavola, ma non per questo proibisci l'uso del sale da tavola. Lasciate all'uomo la facoltà di scegliere la propria vita, non alle istituzioni. E insomma, lo spirito punk scorre ancora nelle vene di quello che forse più di tutti ha rappresentato il genio e la follia di un intero movimento che ha scosso le fondamenta della società inglese. È uno che ha sempre detto quello che pensava senza ovviamente filtri. È John Lydon che diventa Johnny Rotten e torna a essere John Lydon. Magari adesso ha sistemato i suoi denti marci, non ha più i capelli verdi, ha anche un po' di pancetta, però lo spirito non si può cambiare. E oggi, se le nuove generazioni ascoltano prima i Nirvana, poi gli Oasis, poi i Green Day e poi le cose che ascoltano adesso, è gran parte del merito va al punk e a quelli che il punk lo hanno difeso, a volte rimettendoci anche la vita. Un volo urlante, disperato, creativo, questo e tanto altro è stato John Lydon, che per un periodo della sua vita è diventato Johnny Rotten. Noi vi aspettiamo con altre storie, segnalate via mail al falco@radio24.it se conoscete qualcosa che merita di essere raccontato da noi, oppure venite sui miei social, sul sito di Radio 24, sui miei Facebook e Twitter, insomma, lo sapete, se mi cercate mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Dodo Chipinti. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.